si mia bitizza rara, speranza grande di la vita mia, santo comporto di sugli ozzamari, terra di gentilezza e simpatia. Pilla Madonna di Lupitti Rui.